una mostra chiamata Poster for the City. Adesso per andare. Dieci anni di poster design dell'Accademia di Belle Arti per la città di Bologna, a cura sua e di Carlo Branzaglia, che invece è così VIP che non verrà mai a Radio Città Fujinko, perché lui è troppo è un VIP. Però possiamo ringraziare Danilo di averci portato questo veramente freschissimo di stampa catalogo, no? C'è ancora in studio il profumo di carta stampata. Quindi benvenuto alla 468esima puntata di Coxo Spaziale a Danilo. Grazie. In tua compagnia diamo il benvenuto anche a Olivia Teglia e Andrea Corvino. Yuppie. Eccoci qui. Eccoci qua. Buonasera. Benvenuti. Abbiamo menzionato, no, la tua mostra della settimana scorsa è stata menzionata e invece stavolta sei venuto qui dopo. Com'è andata l'inaugurazione? È stata menzionata. Ma a me non sfugge niente di quello che succede a Bologna. Grande. O almeno ogni tanto mi sfugge qualcosa, devo dire. Però è colpa di questi che non sanno che esiste Coxo Spaziale e dunque non ci mandano i comunicati stampa. E infatti possiamo ricordare a tutti quanti che possono scriverci a coxospaziale@gmail.com oppure visitare il blogspot coxospaziale.blogspot.com. Ma se siete in diretta e volete segnalare qualcosa potete scrivere al 333 180 94 o addirittura 94. Cantarci un vocale se volete. Com'è stato Marco Roma, come siamo messi questa settimana? Niente io Marco ce l'ho Roma pronto. No ce oggi l'hai. Oggi di stamattina. Oggi, beh, allora vai, lo mando subito. Certo, voi dovete sapere che Marco Roma ci manda dei vocali cantati tutti i giorni e noi qua a Radio Città Fujiko non possiamo fare altro che farveli ascoltare. Buongiorno! Dai che ce la faremo insieme. Io so che poi riuscirai in quel progetto, tu vedrai, perché il miracolo arriverà e la tua mano esulterà. Da Marco Roma, l'amore vince sempre. Boom boom boom boom, boom. Boom boom, l'amore vince sempre. E naturalmente è dedicata a te, Danilo, che ci hai confessato che la mostra sta procedendo comunque sta andando con grande slancio perché stai allestendo una mostra appunto con 420 poster, hai detto? Sì, sono circa 420 poster spalmati in 10 anni di progetto degli studenti del corso di graphic design dell'Accademia di Belle Arti di Bologna e sono tutti poster commemorativi realizzati per il Comune di Bologna che ogni anno sceglie su un ventaglio di 25-30 proposte poi un poster che verrà pubblicato e stampato per la cittadinanza. C'è chi dice che questi 420 non è un caso che il numero sia quello. Sì, perché nessuno di questi boomer lo sa, però 4:20 è l'orario in cui ci si fa i cannoni. Ah, no. Le 4:20. Le 4:20 è l'orario. Ma dovreste ascoltare Snoop Dogg, 50 Cent, tutti questi grandi colti e raffinati artisti, sì, no, del gente post della nostra moderno età, non vorrei dire. Effettivamente comunque, sì, infatti forse avreste più cose da condividere infatti con loro. Che... E intanto Sara Galici, ci sta ascoltando in diretta e saluta Danilo e dice che anche Susanna Lupi e Michelangelo Greco verranno sicuramente alla mostra, grandissimi. Tra i più bravi studenti che abbiamo avuto loro, veramente dei talenti impressionantemente bravi, se si può dire. Hai capito. E comunque questi 420 poster in realtà sono 420 perché quelli che sceglie il comune sono 3-4 all'anno, ma tutta la qualità degli altri poster non selezionati è così elevata che abbiamo deciso di esporla e quindi voi durante la mostra vedrete 420 poster, uno più bello e l'altro. Hai capito. Hai un tuo preferito, Danilo? Quello che ha messo sì, in copertina. Messo in copertina è un misto di poster. Dai? Sì, sono 4 poster sovrapposti, montati per l'occorrenza. Il tuo preferito è quello che hai stampato a grandezza francobollo, ma di questo ne parliamo dopo, perché invece prima di tutto io ho una dedica e richiesta, ovvero dobbiamo dedicare a Valeria Tamiditin di Bombino. Vai. Questo qua. Valeria, che l'altro pezzo invece, cioè, stavo cominciando ad ascoltarlo, ma poi sono arrivati gli ospiti a rompere i coglioni, per cui non sono riuscito, per cui vabbè, prima o poi ascolteremo anche un altro pezzo. Però possiamo dire grazie, Valeria, di ascoltarci e dedicarci delle canzoni. Infatti, e se qualcun altro volesse dedicare qualche canzone, non lo faccia. No, non lo faccia perché oggi ne abbiamo fin troppe. No, però in generale sappia che può anche qualche nuova emergenza, assolutamente, diciamo, no, tra l'altro, ah sì, no, c'è arrivata una nuova, esatto, una nuova cantante emergente. Spara, che, come si chiama? Si chiama Roxanne. E verrà ospite da Parma. Sì, dopo ne parliamo. Adesso continuiamo a parlare con Danilo, che è ancora qua, che sta installando mentalmente, sta continuando l'installazione. No, perché voglio dire, una mostra nella sala d'Ercole con anche il contributo del sindaco di Bologna, cioè sti cazzi, non è che succede tutti i giorni. Quanto ci hai messo a fare questa mostra? Beh, ma noi abbiamo degli agganci di malavita di ottima fattura, sì, che è, ma è, esatto, è Andrea Marco Corvino con il suo completo gessato. Mi sento così innocente qua in mezzo, vero? in mezzo a sti due brutti ceffi, capito? In effetti adesso vi faccio una foto. Quello di Napoli, quello di Foggia e la ragazza di Bologna, bionda, poverina. Di Foggia. Sì, però non dovrei dirlo in giro. No, non dovresti dirlo in radio prima di tutto. Poi non dovresti dire poverina bionda, anche perché io ho la voce di tutti, infatti, quindi quando qualcuno rompe, esatto, sì, no, ma infatti metterti contro me e mia, tu stai attento. Infatti, no, anche perché appunto qui stiamo parlando di... Che bionde. No, ma bionde. Ma anche il catalogo poi in realtà è fatto grazie alle donne. Cioè, se non c'era la nostra direttrice. Anche il catalogo è biondo, tra l'altro. E se non c'era la Grazietta di Maria, col cavolo che questo catalogo e questa mostra venivano fuori. Quindi in realtà è un catalogo del quale dobbiamo ringraziare le donne, assolutamente. Però, cioè, questa grafica è un po' strana. rispetto alla grafica della Pentagon normalmente, che insomma, cosa è successo qua? Lei deve leggere... No, scherzo. Deve leggere i testi finali dove ci sono tutti colpevoli di questo... Tutti colpevoli. No, in effetti devo dire che una cosa mi dispiace di questo catalogo, ovvero che gli studenti partecipanti al progetto sono segnati con cognome e nome, che è una cosa che io odio in assoluto. Ma è il servizio militare questo? Lo so, no, ma infatti sapendo che tu sei molto militaresco, dico vabbè, accettiamo questa cosa, però va bene così, insomma. Guardi, purtroppo è arrivato l'Excel dalla segreteria 4 giorni prima. Hai fatto copy e incolla e buonanotte. Non c'è tempo di invertire. comunque se hai avuto tanti dal 2014, cioè sono quasi 10 anni. Tutti figli. Tutti figli tuoi, perché tu sei il... No, perché magari cioè, noi stiamo parlando come se fossimo tutti amici, però magari i nostri ascoltatori si chiedono, ma chi cazzo è, scusate, questo Danilo Danisi che insegna in accademia? Cosa insegni in accademia? Allora, io insegno progettazione grafica, quindi graphic design in realtà, e computer grafica e tante altre materie che evito di nominare relative all'immagine digitale, dai, mettiamola così. Ok, mettiamola così. Esatto. Molto bene. Da un po' di anni, insomma. E avete un sacco di studenti. Abbiamo tantissimi bellissimi studenti. E avete un sacco anche di commissioni, perché naturalmente per le istituzioni, anziché pagare un grafico come si deve, è molto più facile andare in accademia e chiedere al corso è così facile. No, non è facile per niente, cioè né per te, né per gli studenti, né per chi ve lo commissiona. No, lo so, perché col grafico che paghi ti puoi arrabbiare, diciamo, per non andare infatti, con gli studenti dell'accademia non ti arrabbi col professore. Esatto, ti puoi giusto arrabbiare col professore, ma non più di tanto, visto quanto viene pagato per tutto questo lavoro extra, che comunque domani andiamo a vedere. Ma come li avete stampati? In che senso? No, nel senso... A mano. Cioè, no, okay. Uno, no. Due. Cioè, sono naturalmente tutti lavori digitali e li avete stampati in digitale, immagino, su carta, immagino. Poster grandi li ho stampati su PVC, che sarebbe un materiale plasticoso, puzzolente, mm-hmm, che però rende nel tempo e resistente al meteo, okay, comunità, le avete, esposti fuori dalla finestra di Palazzo Delta. Esatto, abbiamo messo la prova, funzionano, hanno resistito. Il maestro delle cerimonie cosa dice di questa cosa? È stato contentissimo. Immagino. No, e poi gli altri purtroppo su carta, perché essendo 420 lavori hanno anche un costo di stampa, quindi no, immagino. Abbiamo dovuto un po' ridurre. Dunque formato cartolina, gli altri 390 francobollo. Ah, ok. No, francobollo 1 che è quello del nostro. No, sono quattro formati, sono quattro formati. Un formato 100x70, gli altri tre vanno a riduzione, diciamo 35x50. In ordine di qualità, naturalmente. No, in ordine di qualità del file, perché di qualità del perché essendo hard disk vecchi di 10-15 anni, alcuni file vengono corrotti, si trova solo la traccia del file, e quindi in alcuni casi siamo stati costretti a ristamparli non troppo grandi. Giusto per non ammettere che alcuni studenti non hanno ancora capito la risoluzione, ma questo di questo possiamo parlarne un'altra volta. Esatto. E l'ordine in cui sono messi, l'ordine in cui sono disposti, insomma, hai creato anche un percorso? Allora, abbiamo cercato di rispettare l'ordine cronologico finché poi a un certo punto si è presentato un problema, diciamo, di installazione, quindi abbiamo prospettato due o tre tipologie di installazione differenti. Però è molto interessante perché sono due o tre tipologie di installazione abbastanza differenti. E poi sarà una sorpresa, visto che. Ed è veramente una sorta di Wunderkammer tedesca, tra virgolette, certo. Perché si è bombardati veramente tutte queste immagini. Tra altre cose, uno dei signori che c'è qui, Andrea Corvino, all'epoca, voi lo sapete, lo dico io, lo dici tu? Lo dice lui? Prego. No, io ho fatto l'Accademia di Belle Arti, ho fatto graphic design ed è grazie graphic design. Ed no, in effetti racconta questo aneddoto, ed è anche super interessante. Aspetta, che faccio il portafoglio. E anche grazie a Danilo Danisi che io ho iniziato poi la mia carriera artistica per un errore, perché stava cercando dei qua intanto mentre parlano girano soldi, ho visto comunque. Sì, qua, qua c'è uno scambio esca. Napoli, Foggia. No, dicevi questa cosa super interessante. Sì, perché che fa ridere ma fa anche riflettere, che alla fine praticamente il mio professore Danisi stava cercando dei progetti da mandare alla Biennale, al Salone del Mobile a Milano. Io gli proposi un lavoro e lui non me lo guardò neanche, perché probabilmente non era presentabile. Presentabile 20 euro. e poi però mi chiesero in quel periodo di esporre in una galleria Faenza, che ora non c'è più, una galleria che si chiama Ronchini. Esposi il progetto e fui l'unico a venderlo, quindi grazie Danilo per avermi fatto iniziare la mia carriera artistica così. No, infatti è fantastica questa storia, perché fra l'altro venendo in qua stavamo parlando di Pozzati, devi sapere che è successa una roba simile a Concetto Pozzati, perché lui era andato a bottega da suo zio a Parigi, che faceva il grafico pubblicitario, e lì ha capito che non voleva fare il grafico. Uguale io, sì, esatto. Sì, fa mega ridere. Per cui continuiamo la tradizione dei pittori e non pittori non bolognesi che non vogliono fare i grafici. Beh, sì, effettivamente ce la raccontava sempre questa storia. Infatti, anche tu hai fatto pittura da Concetto. Anche io ero uno studente di Concetto Pozzati. Hai fatto pittura? Sì, certo. Ah, grande. Poi hai capito che non volevi fare pittura e hai fatto il grafico. No, in realtà no, in realtà non è proprio così. È stata più una questione di soldi, di danza, cioè, della realtà. Sì, certo, in quel periodo storico c'era bisogno importante di... È stato, diciamo, una serie di commissioni, di cose abbastanza da danza della realtà. Ah, figo, fighissimo. Esatto. No, ma io sono un disegnatore in realtà. Ah, ok, bello. Infatti faccio una fatica alcune volte a sposare la grafica svizzera, quella razionalista, perché poi esce una ribellione dentro di me che cerca di portare fuori... Noi italiani siamo un po' troppo viscerali per la grafica svizzera. No, ma non è nemmeno tanto così, sai, oramai la cultura si è globalizzata, quindi in realtà guardando online ha la possibilità di sposare qualsiasi tipo di approccio, e forse anche un fatto di identità personale, di caratterialità. Io per esempio amo da morire David Kerson, i Republic Designer. Se mi sento certo. con l'Illisia mi... mi lancio dalla finestra, perché per loro... Vabbè, del resto tu insegni all'Isia, eh? E non è un caso. No, è una delle migliori scuole italiane, l'Isia. Certo, no, lo sappiamo, chiaro. Ci sono dei maestri che insegnano all'interno che sono veramente dei fenomeni. E no, niente, sai... Ma tu, Olivia, invece cosa hai studiato? In accademia io ho fatto pittura. Ah beh, allora tutti... Sì. Tutti dei gran pittori. E poi finire a fare la curatrice di... Com'è stato curare la mostra di Andrea Marco? È stato bello, è stato divertente. Sono contenta che si sia rivolto a me. Ci conosciamo da un po' di anni. Sì, dai. Da un po'. Sì, quindi insomma conosco bene il suo lavoro e penso che negli ultimi anni stia riuscendo a portarlo a sfidarsi un po'. Tra l'altro diciamolo che la mostra è allo studio Ferrari, sì. che è uno studio di artisti, giusto? Sì, è uno studio condiviso da più artisti con cui ho avuto occasione di collaborare quasi un anno fa, insomma nel periodo di Art City, in realtà di Art City 2023. Abbiamo realizzato una mostra insieme in collaborazione con la mia associazione Collettivo e da lì un po' è stata la prima apertura al pubblico della parte superiore di Studio Ferrari, che è su una vetrina che affaccia sulla strada in una traversa di Via Lame, via Grimaldi. Mm-hmm. E insomma da qui è nata un po' l'idea di iniziare a sfruttare questo spazio come spazio espositivo. Io diciamo in questa situazione sono collaboratrice esterna e si chiama Studio Ferrari perché corro verso i soldi, viene in Ferrari esatto. Nello studio, giusto? No, allora dovete sapere studio... che corro verso i soldi è sempre Andrea che ha questo nome su Instagram, anzi andatelo a seguire perché... Grazie. Prego. Grazie davvero. No, comunque si chiama Studio Ferrari perché era uno studio del signor Vito Ferrari, che è un pittore bolognese che è venuto a mancare qualche anno fa, nonché nonno di un nostro amico, e quindi aveva questo bellissimo atelier che poi ci ha lasciato in adozione, tra virgolette, in gestione, e quindi da lì poi si è creato uno spazio di co-working. Poi è uno studio molto bello perché c'è un giardino dove stare in relax, una zona esterna di laboratorio, una zona sotterranea di laboratorio, e poi abbiamo questo white cube che utilizziamo per le arti visive. E quindi sì, abbiamo inaugurato questa mostra che si chiama Nasci solo, muori solo ed è già troppa compagnia, che è già troppa compagnia, che è una frase di Carmelo Bene, che in realtà è la frase di un altro filosofo che poi lui però piaceva storpiare e aggiungere qualcosa alle frasi mettendo quel tocco un po' cinico che lo rappresentava. E sì, questo solo show prevalentemente di pittura, tranne che per una statuetta magica, una che statuetta dice magica, nasce solo muori solo, sì. Ed è stata venduta. Certo, è magica. È magica quella. Tra l'altro, da bravo costruttore di talismani, sei riuscito a sbolognarlo immediatamente. Hai visto? ma perché era il mio obiettivo? Perché io in realtà, appena uscito dal forno, volevo buttarlo. Mi sembrava. Sì, cioè è come tipo il figlio non voluto, non lo so. Sì, è ceramica. Fatta in bottega Gatti a Faenza, wow. Che è una bottega molto bella, storica, sì, storica di certo. Faenza. E tra l'altro per dipingerla ho usato i colori che di Mimmo Palladino, quindi per me tipo wow. Ma mega lui lo onore. Sa che gli hai rubato i colori? Speriamo che non le senta no, infatti, dubito che stia ascoltando Radio Città Fujiko, però sa, Mimmo magari. Sappi che comunque Mimmo sappi che secondo me l'opera italiana più bella in assoluto l'hai fatta tu sull'ultimo scoglio di Lampedusa, Le Porte d'Europa, che tra l'altro è sempre stato fatto da Ceramica Gatti. Vedi? Sì, quella è un'opera per me incredibile. In pratica questo portale gigantesco che gli aveva chiesto di fare il comune di Lampedusa, e lui al posto di farlo come tutti fanno nel centro della città in piazza, l'ha fatto sull'ultimo scoglio, così che poi la gente che arriva dall'Africa con le barche, la prima cosa che vede dell'Europa è quella porta gigante incredibile, cioè di una potenza espressiva incredibile. Super. E quindi grazie Mimmo per i colori, e è piaciuta, dai, quindi va bene così, quindi è andata bene, ok. Ed è tra un minuto ci sono le pubblicità. Cosa facciamo? Cosa può dire? Volevo dirtelo in modo. Puoi mettere un jingle se vuoi, oppure non lo so. Cosa facciamo in un minuto? Potremmo cantare una canzoncina. Facciamo un minuto di silenzio. Potremmo fare un minuto di silenzio per i colori usati di mio paladino. Ma fai partire la pubblicità, dai. Faccio partire così alla brutta. Alla brutta, certo. Questo è il minuto di silenzio. Coxo spaziale! Yeah! Coxo spaziale! Esce il 24 novembre, per cui questa è una super preview. Com'è? Bellissimo. Bellissimo. Raccontaci un po', Danilo, perché Branzaglia non è venuto stasera? Ma guarda, mi ha detto... sta facendo i giri in Ducati. Mi ha detto in camera caritatis non posso venire, quindi evidentemente avrà qualche impegno. C'era qualche intrigo. Secondo me avrà qualcosa di super interessante. Il lunedì sera è un momento particolare. No, credo che sia fuori Bologna, sinceramente, se non sbaglio... No, non voglio, però forse a Milano. Ah, vabbè, ma comunque lo salutiamo. Lo salutiamo calorosamente. Calorosamente. E affettuosamente. E... senza Carlo questo catalogo, anche senza di lui, insomma, sarebbe stato difficile. No, devo dire che, vabbè, io... Devo dire che il catalogo dove lo possiamo comprare? Diciamo ai nostri, diciamo le nostre ascoltatori, allora, di Cozzo Spaziale. Allora, vi do l'Iban, il suo Iban, esatto. No, io devo dire che da ex professore di tecniche grafiche speciali, cioè, avete fatto un lavorone enorme, super... Cioè, non, nulla da invidiare alla scuola di grafica di Varsavia, direi. E ride. Yes, van der Rohe. Ah, oh. No, no, devo dire che... Il progetto grafico originale di Raffaelli, mm-hmm. Luigi Raffaelli, che è un docente dell'Accademia delle Arti di Bologna, e che ringraziamo, posso fare un po' di ringraziamenti? Ma quelli sì, dai. Proprio dai... Vai. Quelli proprio... Sì, assolutamente vai, sì. No, e non dimentichiamoci nessuno. No, ci dobbiamo ricordare tutti, è veramente difficile. Però Luigi lo ringrazio particolarmente perché, insomma, ci ha aiutato veramente molto con i suoi consigli e le sue dritte grafiche. Quindi anche senza di lui. No, e poi ci sono un sacco di saggi anche proprio sulla sì, grafica, sulla sì, comunicazione, sì, eccetera, eccetera. Ci sono testi istituzionali iniziali di, come hai detto già tu, del sindaco di Matteo Lepore, della Elena Di Gioia, che è delegata alla cultura di Bologna, città metropolitana, della nostra direttrice Cristina Francucci, di Luciano Galimberti, che è presidente ADI, e Marco Tortorio Ricci, che è presidente AIA. E poi a seguire all'interno abbiamo un bel po' di testi critici. Infatti, stavo guardando. Tra cui il mio. Leggici un pezzettino, dai. No, dai, non mi è piaciuto. No, leggere. Assolutamente. Okay. Una sì, frase, no, una parola. Giusto per Anna far capire Steiner. Agli ascoltatori che stiamo sfogliando dei cataloghi. Se facciamo sì. Sentire il rumore esatto, della... esatto. ASMR. Facce. Sì. No, perché poi voglio dire, veniva dalla vostra scuola anche l'ultimo poster della commemorazione del 2 agosto. Assolutamente sì. Cosa che magari sì. i nostri ascoltatori più distratti non sapevano, insomma, esatto. ci può stare. Ed è da tanto che collaborate con l'Associazione delle Vittime del 2 agosto, giusto? Sì, sono all'incirca 10 anni che ospitiamo il fantastico onorevole Paolo Bolognesi in classe, che viene a sensibilizzare i nostri studenti sulla strage del 2 agosto. Ogni volta che viene i ragazzi fanno tipo gli occhioni, è presente i cartonati giapponesi, mm-hmm. quando improvvisamente gli occhi diventano grandi così. Sì. E Paolo ha una capacità di raccontare e di spiegare quello che è successo veramente incredibile. E sì, da 10 anni diciamo produciamo i poster per la commemorazione del 2 agosto e quest'anno avete selezionato Giorgia D'Aurelio, che esatto, me lo esatto. ricordo bene questo poster, che era in giro per tutti i viali di Bologna. Esatto, bravissimo. No, sono molto belli anche tutti gli altri, devo dire. Sì. Infatti cioè, il problema è sempre scegliere. No, infatti. Il problema è sempre scegliere perché appunto alcune volte, questo bisogna dirlo, il comune ovviamente è un'istituzione, quindi alcune volte a seconda anche del contesto politico, delle necessità, è ovvio che le scelte vengono operate su determinati tipi di materiali piuttosto che su altri, addirittura è capitato abbastanza spesso che il poster scelto non fosse il più, tra virgolette, bello o... significante dal punto di vista sia estetico che funzionale. Infatti quando è venuta sull'estrema destra a Bologna Andrea Corvino è stato selezionato per i suoi poster che naturalmente no, perché in effetti vabbè, lui è sempre destabilizzante naturalmente. Cioè, che cosa avevi fatto? Tipo, allora, avevi messo Hitler nel poster della commemorazione per il 25 aprile. Lui cosa fa? Ci mette Hitler, capito? Allora, cioè, pagina 60 in alto al centro. Allora, qua festa della libertà, ma in realtà sono due statue di Hitler e Mussolini che si stanno dando crepando. Stanno sembra cascando. Che si danno 5. No, mentre invece stanno crollando, è che, stanno è che non crollando, si capisce bene. Quella è la che non si vede perché è un po' piccolino, non so perché la nostra non è che proprio sì, diciamo no che... la pubblicità l'abbiamo già fatta, l'abbiamo già consumato sì. Però mi piace sempre la libera interpretazione, vedi, escono non cose so. Magiche però non troppo libera, però già all'epoca si notava lo stile che strizzava l'occhio ai pittori sudamericani, no? Infatti. Vedi già, cioè, sono delle forme ritagliate, piatte. Sì, tinte piatte. Tinte piatte. Lettere. Tinte piatte, disegnato. Forme piatte. Linee diagonali. Vero. E E in questo io ti direi che potremmo cominciare a menzionare dei prossimi eventi di questa scoppiettante settimana che abbiamo fatto. Cavoli, hai ragione, perché in effetti abbiamo fatto, cioè sei tu alla regia, io mi dimentico che dobbiamo mettere la nostra angolo della menzione. Vai. L'angolo della menzione. Ecco qui di fianco a te perché non mi ricordo niente. Martedì 14 novembre alle 17.30, che è domani, si inaugura Poster for the City, 10 anni di poster design dell'Accademia di Belle Arti per la città di Bologna, a cura di Danilo Danisi con Carlo Branzaglia, che presenta i manifesti realizzati a partire dal 2014 dal corso di design grafico dell'Accademia di Belle Arti di Bologna per le celebrazioni istituzionali del Comune di Bologna. Questo è a Palazzo D'Accursio, nella Sala Ercole, in Piazza Maggiore 6 a Bologna, con ingresso libero. È buono sapersi, praticamente è nello stesso posto dove c'era la mostra di Luca Bolognese, che è venuto ospite un paio di settimane fa. E dopodiché che succede? Dopodiché mercoledì 15 novembre alle ore 18, Nemico Vero, un libro e una mostra di Erika Alcane sulle mura del bar e della libreria, saranno in esposizione le tavole originali e disegni dei libri Potente di Fuoco e Nemico Vero. In occasione della mostra verranno messe in vendita le copie in edizione limitata di Nemico Vero. Questo è a Modo Info Shop in via Mascarella 24B Bologna. Sempre mercoledì, da mercoledì 15 novembre, abbiamo Garage Bentivoglio, che presenta Matteo Nasini, Il Giardino Perduto, il progetto di Palazzo Bentivoglio, che ogni mese mette a disposizione dello sguardo dei passanti un pezzo della sua collezione. Presenta per il suo terzo appuntamento un'opera che interroga lo sguardo dei passanti nella sua nuova collocazione, aggiunge significato al suo messaggio. Questo è Garage Bentivoglio in via del Borgo di San Pietro 3A a Bologna. E giovedì 16 novembre, invece alle ore 18, Riccardo Badalà, Guy Litzer, Abitare il vuoto. Ciò che accomuna i due artisti, la cellula germinativa del loro lavoro, è un procedere per sottrazione della materia e delle forme, in sintonia con quanto affermava Plotino, filosofo greco neoplatonico. Se cerchi la bellezza, procedi per sottrazione, affermava, mira all'essenziale. Tutto questo è a Galleria B4, via Vinazzetti 4B. Sempre giovedì, sempre alle 18, abbiamo Silla Guerrini, I cervi bramiscono anche nell'occhio della tigre. Una serie di 40 collage costituisce l'articolato corpus di inediti che Silla Guerrini presenta nelle sale della Galleria Spazio B5. Le opere sono tutte state create durante il periodo di reclusione dovuto all'emergenza sanitaria, e questo aspetto ne determina sia l'ambito linguistico che quello concettuale. Questo è a Spazio B5 in Vicolo Cattani 5B a Bologna. E sempre giovedì 16 novembre dalle ore 19 alla Stamperia Squadro Habitat, anteprima di ascolto integrale del nuovo disco Come On Tigre, con l'intervento di Giovanni Truppi. Questa è Squadro, Stamperia Galleria Arte, via Nazario Sauro 27B. Poi sabato 18 novembre alle ore 17 la sala conferenze del Mambo ospita la presentazione di Porpora, un volume monografico dell'opera fotografica di Lina Pallotta. Porpora, edita da Nero Editions, raccoglie una selezione di 80 fotografie di Lina Pallotta in un flusso che si restringe nell'intimità del privato e attraversa lo spazio pubblico, le piazze e gli eventi politici, con l'obiettivo di tratteggiare una storia collettiva. Questa è al Mambo in via Tomminzoni 14 a Bologna. Dai che è andata. Dai che è andata, hai visto come sto diventando sempre più brava? Sempre più brava a fare partire lo stacchetto delle menzioni, che è stata un'idea di Fedra che in effetti potevamo... Allora, a questo punto che nominiamo Fedra, possiamo salutare Chiara Pergola e Fedra dicendo che la 500ª puntata di Cox sarà, abbiamo ipotizzato, più o meno al 24 giugno. Grandissimo. Per cui attenzione che ci sarà un puntatone, forse potremmo anche fare una festina, in effetti. Assolutamente. Adesso sì. Lo chiediamo possiamo anche fare un contest di contenuti. Un contest di contenuti già comincia a essere un po' troppo complicato, perché poi il 24 giugno è momento di esami, tesi, eccetera. Appunto. ecco un motivo per fare una tesi su questo. Ok. Lancio un pezzo. Che pezzo lancio? Tom Petty and the Heartbreakers, Learn to Fly. Anche questo è un dedicato a... Dedicato a chi? L'amour, toujours. È dedicato all'amore della mia vita. started it out down a dirty road. Started out all alone, and the sun went down as it crossed the hill, and the town lit up. The world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return, and the rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Stavamo dicendo, le la faccio io qualche domanda ad Olivia. Dimmi. Dici quello che succederà. Che succederà? Ma perché lei predice il futuro, giusto? Io stavo parlando anche di un prossimo progetto. Non posso dire tutto. No, allora intanto vi invito a, se non l'avete vista, a visitare la mostra che ha inaugurato Andrea a Studio Ferrari, inaugurata appunto settimana scorsa il 9, visitabile ancora fino all'8 dicembre. Se siete interessati vi consigliamo di contattarci o tramite i canali Instagram anche di Studio Ferrari stesso. Diciamo, in studio generalmente c'è sempre qualcuno, c'è un campanello, si può suonare, si può entrare, si può visitare la mostra in corso, però è sempre anche bello poter scambiare due parole con l'artista o insomma o la curatrice. O la curatrice, esatto, quindi per questo se avete voglia contattateci per visitare la mostra e fare due chiacchiere insomma sul lavoro di Andrea, che sono stata contenta di curare. Io diciamo una progettualità condivisa con un gruppo di persone, ci occupiamo di varie cose, però adesso sto iniziando un po' anche una progettualità individuale come curatrice indipendente, quindi mi insomma curerò altre mostre all'interno di questo progetto di Studio Ferrari prossimamente. Beh, in bocca al lupo e congratulazioni. Yeah, viva il lupo. Lunga vita al lupo. E forse Andrea vuole dire qualcosa anche. Cosa vuole dire? Offline ha un sacco perla, di perla, ha un sacco di cose da dire. Offline, online anche. Perle non lo so. Ah sì, progetti futuri fine tuoi. Gennaio avrò il piacerone. Fai una mostra curata da Danisi, vero? Sì, sarà probabilmente, chi lo sa. Sta già lavorando. Magari facciamo al 421 poster. Esatto. Progetti futuri a fine gennaio, con Galleria Più avrò il piacere di dividere lo stand nella sezione multipli di Arte Fiera con il maestro Concetto Pozzati. Ah, ma allora qua. E quindi tutto quadra. Tutto quadro. E quindi sì, mi sto un po' cagando in mano, scusate il termine, si poteva dire. Sì, si può l'importante dire. Cagando in mano a Cox Spaziale, sì. Si può dire, sì. Certo. E... anche perché non hai detto in radio. No. Esatto. L'importante è che tu non ti caghi in radio. Ok. No, tutto ok. Per ora tutto ok. Meno male che voi state immaginando delle scene. Esatto. No, comunque sì, mi sto multipli, wow. Sono carico perché Arte Fiera quest'anno come tema avrà gli anni 70, quindi il maestro Pozzati negli anni 70 ha prodotto delle cose fighissime, e serigrafie con tecniche multiple, e ha fatto molta ricerca, e quindi io poi porterò alcune ceramiche e quindi vi consiglio di venire poi a fare un salto ad Arte Fiera a fine gennaio a Bologna. Avremo poi modo di... Esatto, ne verranno a parlare. Assolutamente. Anche perché, piccolissimo spoiler, Veronica di Galleria Più diceva che verrà a parlare a dicembre, quindi progetti suoi. Sì, esatto, suoi. È vero. Ci deve raccontare del futuro della sua carriera. Esatto. Mentre invece la mostra Palazzo da Curzio è sempre aperta, giusto? Da qui a più infinito mi sembra che sia plenamente aperta. Sì, no, dico agli orari d'ufficio di Palazzo da Curzio, tipo dalle 8 di mattina alle 9 di mattina fino alle 6 di sera, e a ingresso libero nel primo piano, giusto? Di fianco agli uffici, infatti. Allora, dalle 9 di mattina fino alle 19 di sera. Ah, esatto. Vedi? Ok, e tu naturalmente sei lì tutti i giorni a dare il benvenuto ai nostri, esatto, molto bene, e a vendere questi fantastici, questi meravigliosi cataloghi. Come no, si scherza. No, no, il catalogo lo vende Pendra, secondo quello che io so. Certo. Però dopo questa frase potrei essere stato domani radiato da esatto. Ma io in effetti è per questo che l'ho detta, capito? Figurati, io no, perché se ho qualche amico che vuole il tuo posto, dunque scherzo. E no, naturalmente l'appuntamento con te e con Carlo è domani alle 17:30, no? Sì, domani inauguriamo alle 17:30 la mostra, alle 16 abbiamo un piccolo incontro con la stampa, e alle 17:30 chiunque voglia venire, il benvenuto, noi siamo felicissimi. La damigiana ce l'avete. Se tu non vieni, mi ricorderò. Io, essendo io stampa, ci vediamo alle 16. Esatto. No, anche perché sennò l'Irene mi mena. Domani festeggiamo, insomma, finalmente il compimento di questo progetto. Infatti, che comunque è veramente un lavorone enorme, complimenti davvero. Ti ringrazio. Ma possiamo dirlo in radio? Che cosa? La notte, stanotte, sarà tutta ancora a fare le ultime cose? No, perché Palazzo da Curzio è chiuso di notte, per cui domattina all'alba di fare gli ultimi ritocchi, cioè c'è sempre questa cosa dell'ultimo ritocco prima dell'opening. Posso ringraziare i miei studenti che mi hanno dato la mano incredibile a fare questa cosa? Sì, assolutamente. Sono stati oggi dei guerrieri tutto il giorno. Grandi. A installare anche domattina. Grande. Veramente, senza di loro... Senza di loro l'Accademia non esisterebbe. Beh, questo è il minimo. Esatto. Molto bene. Allora dedichiamo a questi studenti un grandissimo grazie. Che poi alcuni ce li avete anche in comune, forse, gli studenti? No. Ok. No, okay. Io non ho nessuno di arti grafiche. Ok, va bene. Cui, no, non abbiamo... No, non abbiamo studenti in comune, purtroppo. No, quello è vero, in effetti. No, perché poi gli studenti hanno la possibilità di fare un corso a scelta. Adesso che hanno sentito Danilo in radio, i miei studenti verranno a proporre dei poster a lui, e lui naturalmente li cazzierà come ha fatto con Andrea, e dunque diventeranno tutti super artisti e faranno una carriera floridissima. Però viva anche i professori che cazziano, dai, diciamo. Ah, Cazziatoni. Sì, no, infatti siamo sempre tutti troppo buoni. Ma sai che io mi ricordo più i professori che erano tosti e duri, che non te la facevano passare, che quelli che... Ci sta. Insomma, Sì. Perché ci vuole più impegno a dire di no. Sì, no. No, in effetti è più difficile essere stronfi che essere buoni. Poi ovviamente dipende sempre dalle caratterialità personali. Però. Certo. E cosa dici? Ci possiamo salutare con questa massima? Ci possiamo salutare con questa massima. Noi ringraziamo tantissimo i nostri ospiti. Olivia, Andrea e Danilo, ovvero Olivia Teglia di ASAP. Esatto. ASAP. Andrea Marco Corvino di Corro Verso i Soldi, che ormai diventerà un SRL, visto che continui a vendere fra un po' sarai un SRL, visto che continui a vendere come un ossesso, e poi naturalmente invece noi poveri mortali, professori dell'Accademia, Danilo Danisi e Carlo Branzaglia, che hanno curato appunto questa fantastica mostra da non mancare, che starà su almeno 2 settimane, presumo, forse anche di più, fino al 3 dicembre, per cui abbiamo un po' di tempo, quasi un mese per andare a vedere che questi 420 poster, per cui se non ce la fate vederli tutti potete tornare, perché tanto è aperta fino al 3 dicembre. Io e ero poi, Stefano W. Pasquini. Io ero Mia da Schio su Piei. E mi autoringrazio per aver fatto la regia stasera. Sei stato veramente bravissimo. Grazie. E ci salutiamo con le parole del direttore, che ci saluta così. Basso livello di radiofonia, ascoltiamo la sigla. Niente, non ce la puoi fare, faccelo sentire tutto. Con questo basso livello di radiofonia, ascoltiamo la sigla. Ok, così meglio. Che però non parla. L'odore delle rose. Cos'è? È una reazione chimica. Se un giorno lo scoprissi, non lo meresti più. Il senso delle cose è una coperta stesa su un passato ancora vivo, ma te lo ricordi tu. Se torni indietro, amore, tu certo ce la farai a dare un senso alle cose che sono dentro di te. Se torni indietro, amore, il perché delle emozioni, ma perché nascono e poi muoiono, crediamo, non lo sappiamo, ma non lo sapremo mai. Ma le cose in cui credevo io, ma sono le stesse da una vita. Cambia forse lo scenario, cambia il gusto, ma che fa? Se torni indietro, amore. Qualcosa che ti vada, credi a me. Qualcosa che tu sei nel profondo del cuore. Qualcosa che ti vada, credi a me. Qualcosa che tu sei nel profondo del cuore. L'odore delle rose dura il tempo di un sorriso. Sul tuo abito da sposa dura il tempo che vuoi tu. Così passa la mia vita, e così passa la tua vita. E perché non ti rincontro neanche, me lo chiedo più. Se torni indietro, amore.